Sono le 13. GR24, il sole 24 ore, edizione extra large. Torino, dopo le tensioni e i fermi di venerdì al G8 dell'università, scontri tra studenti e polizia. La stampa tedesca si scatena con le indiscrezioni su Fiat. Nessuna chiusura di stabilimenti avrebbe assicurato Marchionne e si parla anche dell'addio al marchio Lancia. Morto il leader, ribelli tamil sconfitti, l'esercito dello Sri Lanka riconquista il nord dell'isola, ma l'Europa sospetta gravi violazioni dei diritti umani. Inizia oggi il processo per la leader dell'opposizione birmana Aung San Suu Kyi. Ai nostri microfoni parla una dissidente. È una farsa, il regime teme la liberazione. La Russia insiste, l'alto commissariato ONU per i rifugiati sbaglia e tutto il governo su questo è d'accordo. Gerex Allarge, buongiorno da Alessio Maurizi. E una buona giornata anche da Simone Spezia. E in apertura dunque gli scontri di questa mattina avvenuti a Torino, come sentivate anche dai nostri titoli, nel cosiddetto G8 degli studenti che si sta svolgendo nel capoluogo piemontese. Sentiamo. La manifestazione che raccoglie studenti e movimenti antagonisti sarà domani, ma già da qualche giorno la Torino Universitaria è in subbuglio. Il raduno di 40 e più rettori al Castello del Valentino ha ricompattato l'onda. Stamattina, proprio davanti al castello, la tensione era palpabile, tanto che le forze dell'ordine hanno caricato per allontanare i manifestanti. Sono volate le prime manganellate e gli studenti hanno risposto lanciando uova contro polizie e carabinieri. Circa 200 studenti sono diretti verso il Castello del Valentino, comunque in formazione colorata, tutti col viso scoperto, eccetera. La polizia ha caricato per sgomberare il traffico. Questa carica sono stati arrestati anche 3 studenti. A Torino sono già arrivati universitari provenienti da ogni parte d'Italia. Si sono organizzati con pullman e treni speciali. Ma perché protestano? Questi rettori che gestiscono delle università allo sfascio, dove non c'è il benché minimo becco d'un quattrino per innovare, per migliorare, come possono farsi portatori di una sostenibilità che meriterebbe invece ben altri stanziamenti sia per la ricerca che proprio per questioni proprio molto pratiche. Tutto è cominciato venerdì. Studenti e lavoratori dell'Ateneo hanno trovato sbarrate le porte di Palazzo Nuovo, sede delle facoltà umanistiche, ufficialmente per motivi di sicurezza. Gli studenti hanno organizzato una manifestazione spontanea e sono riusciti a occupare uno degli uffici del rettorato. Dittatore! Rettorato sotto sequestro! Oggi il rettore del Politecnico, uno dei promotori del G8, ha assicurato che c'è grande attenzione alle richieste degli studenti. Gli studenti però hanno poca fiducia. Il problema è che sappiamo già benissimo, come al solito, che ovviamente le porte saranno ben chiuse. Valeria De Rosa, GR24, il sole 24 ore. E dal G8, dal cosiddetto G8 degli studenti di Torino, ci spostiamo nel luogo dove si svolgerà il G8 dei capi di Stato e di Governo. Sì, perché andiamo all'Aquila dunque, per parlare però del post-terremoto. Ieri lo smantellamento della prima tendopoli. La prima tendopoli post-terremoto è stata chiusa a Castel del Monte, in quello che è uno dei borghi più belli d'Italia, sospeso tra le vette del Gran Sasso e la Valle del Tirino. I residenti hanno vinto la paura e hanno trovato il coraggio di rientrare nelle proprie abitazioni. Per 20 abitanti che si ritrovano con le case lesionate è stato trovato ricovero in un albergo del paese. Al termine di un'assemblea abbiamo deciso di tornare nelle abitazioni, ha detto il sindaco di Castel del Monte Luciano Mucciante. I cittadini hanno vinto la paura e con grande collaborazione hanno deciso di riprendere una vita normale a più di un mese dal terremoto. All'inizio contavamo 500 sfollati, scesi a 250 negli ultimi giorni. Poi abbiamo deciso di chiudere il campo di accoglienza allestito nel centro sportivo. Il primo cittadino ha annunciato che nei prossimi giorni verranno donati ad altri campi le scorte di viveri depositate in un magazzino. Sul fronte dell'inchiesta post-terremoto, stamani il sostituto procuratore Fabio Picuti ha fatto visita all'ospedale San Salvatore per partecipare insieme ai consulenti nominati dalla procura agli accertamenti su 2 colonne portanti della struttura danneggiata dal sisma. Per domani sono state previste delle prove geologiche sui terreni sui quali sono state costruite le abitazioni. Marcello Ianni, GR24, il sole 24 ore, L'Aquila. E ora all'estero, iniziando dall'Estremo Oriente, dove una guerra civile lunga 25 anni è terminata. Parliamo dello Sri Lanka, dove l'esercito ha sconfitto definitivamente i ribelli tamil. Ci aggiorna in diretta Marco Masciaga. Marco. Beh, la guerra sì, avete ragione, è ufficialmente finita con la morte oggi di Velupillai Prabhakarana, che il leader storico delle Tigri Tamil. Si chiude una stagione che, come dicevate voi, è durata 25 anni e qualche mese ed è costata la vita almeno a 70.000 persone. Secondo la TV di Stato, Prabhakaran sarebbe stato ucciso mentre tentava di fuggire dalla zona dei combattimenti su un'ambulanza, ma queste sono circostanze assolutamente impossibili da verificare, perché da mesi il governo impedisce alla stampa indipendente di poter seguire le operazioni militari. Ora l'emergenza diventa quella dei rifugiati, il governo dovrà prendersi carico di decine di migliaia di persone che sono state strappate ai propri villaggi, e sarà questo un test chiave per capire quanta volontà c'è di risolvere anche politicamente, non soltanto militarmente, la questione aperta della minoranza tamil. Sì, tra l'altro arrivano notizie su questo fronte e ringraziamo Marco Masciaga per questa corrispondenza dall'Unione Europea, che si dice costernata dalle continue perdite di civili e si dice seriamente preoccupata per i rapporti che parlano di utilizzo di armi pesanti, inclusi mortai, e chiedono un'indagine approfondita a proposito della eventuale violazione dei diritti umani da parte del governo dello Sri Lanka. Vedremo come andrà a finire. E intanto però restiamo all'estero, perché siamo quasi alla vigilia di un evento cruciale. Sarà la missione della mia vita. Con queste parole enfatiche, secondo il quotidiano Maariv, il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha spiegato ai suoi collaboratori il significato dell'incontro di oggi con il presidente degli Stati Uniti, Barack Obama. Ma sentiamo come trattano la cosa i quotidiani arabi. Adib Fateh Ali. Il mondo attende la svolta dell'America verso il Medio Oriente. Con questo titolo, Ash-Sharq al-Awsat interpreta la grande attesa del mondo arabo per l'incontro di oggi a Washington tra Barack Obama e Benjamin Netanyahu. La stampa moderata confida nella capacità del capo della Casa Bianca di convincere il premier israeliano ad accettare la soluzione dei due stati e di fermare gli insediamenti, punti ritenuti essenziali per il grande piano di pacificare il Medio Oriente che Obama intende lanciare dalla capitale egiziana il 4 giugno prossimo. Disegno opposto e giudizio della stampa antioccidentale riassunto efficacemente dal libanese Annashra. Israele non ostacola Obama nel dialogo con l'Iran e gli USA, per la questione palestinesi, lasciano mano libera a Israele, definito Stato al di sopra della legge. Adif Fateh Ali, GR24, Il Sole 24 Ore. È iniziato nel tribunale della prigione di Insein, a nord di Rangoon, il processo contro la leader dell'opposizione democratica birmana Aung San Suu Kyi, accusata di aver violato gli obblighi degli arresti domiciliari lasciando entrare in casa sua un presunto attivista americano. Le misure di sicurezza attorno al penitenziario sono state visibilmente rafforzate sin dalle prime ore del mattino e agli ambasciatori europei, tra i quali quello italiano, non è stato consentito l'ingresso. Un processo farsa, dicono da Londra i dissidenti birmani che sostengono la liberazione di Aung San Suu Kyi. E allora Cristina Carpinelli ha raggiunto una di loro, Anna Roberts. Quello che è chiaro è che il regime sta usando il pretesto di questa intrusione nella casa della leader birmana per poter mantenere in stato di detenzione Aung San Suu Kyi ed essere sicuro che vi resti per il prossimo anno e dunque che la sua figura non provochi problemi per la tornata elettorale dell'anno prossimo. Questo processo è dunque una farsa, secondo lei? Lei in questo momento ha gli arresti domiciliari e quello che è chiaro è che il regime birmano non vuole arrivare al 27 di maggio, data della sua liberazione. Gli uomini del regime sono arrabbiati e preoccupati soprattutto per la grande solidarietà internazionale che Aung San Suu Kyi sta ricevendo. Non sono capaci di contrastare quest'onda e temono che potrebbe la sua liberazione portare ad un vero e proprio terremoto elettorale e al crollo del regime il prossimo anno. Allora quello che dobbiamo fare è non soltanto pressioni politiche sulla Birmania, ma anche gesti forti in modo che Aung San Suu Kyi e tutti i detenuti politici birmani vengano liberati. Però tutto questo è stato già fatto, la comunità internazionale si è mossa, ma l'impressione è che siano solo prese di posizione politiche, non abbiano ricadute di alcun tipo. Forse la comunità internazionale dovrebbe essere più coraggiosa. Sì, in questi anni abbiamo sentito grandi parole, ma pochi gesti. Noi vogliamo che la comunità internazionale trasformi queste parole in fatti, che l'ONU intervenga davvero. Vogliamo che il regime birmano venga isolato soprattutto dai mercati asiatici, che sono gli unici che potrebbero avere un peso molto forte. Ricordatevi che questo è un regime debole, non è capace di sopportare una pressione internazionale. Il problema è che deve esserci questa pressione, non come negli ultimi anni quando la comunità internazionale ha assistito a crimini orrendi guardando tutto da lontano. E parliamo di cinema adesso, andiamo al Festival di Cannes, ci sono stati 5 minuti di applausi che hanno salutato ieri la prodo sulla Croisette dell'opera seconda di Mia Hansen-Love, intitolata Il padre dei miei figli. Il protagonista del film è Chiara Caselli. Ho avuto un po' di dubbi all'inizio perché è un ruolo che non avevo mai fatto. La prima volta in cui mi sono trovata a raccontare una donna nella sua quotidianità di madre, di moglie, che poi si trova in una situazione eccezionale, cioè fuori dal comune, con un marito che muore e milioni e milioni di debiti da portare avanti. E quindi questa donna si trova a metà del film, perché la morte del marito cade a metà del film, a dovere portare avanti, a scegliere più che dovere, a scegliere di portare avanti il lavoro del marito. Io ho sempre fatto personaggi che rifuggono in un qualche modo la quotidianità del fare di una madre. Dovere raccontare un personaggio così, all'inizio ho detto ma io non so se sono capace, poi mi sono guardato allo specchio. Ho detto, Caselli, guardiamoci negli occhi, io sono mamma, tiro su mio figlio, insomma, meno male da sola, insomma, sono in quel momento, soprattutto stavo passando delle traversie personali, legali, che in un qualche modo avevano a che fare con quel personaggio. E poi soprattutto nel momento in cui sei madre e quella cosa lì la sai, la conosci. Come sa se finì? C'est un échec financier. Mais regarde le chemin incroyable qu'il t'a parcouru. Regarde toutes les œuvres qui existent grâce à toi, tous les metteurs en scène qui t'a fait connaître et qui te sont reconnaissants. Sempre più attrici italiane lavorano in Francia. E tu dopo questo film verrai irrimediabilmente rapita o speri di tornare a lavorare in Italia? Sarei molto contenta di se potessi lavorare di più in Italia, perché trovo che abbiamo una generazione di nuovi registi vivissima, detto tra noi, non lo andrò a dire in Francia, ma secondo me la migliore generazione nuova del cinema europeo è in Italia, e questo nonostante una crisi micidiale, e vorrei esserci di più, ecco. Le 13:17 nella prima parte del GR Extra Large abbiamo parlato degli scontri a Torino tra gli studenti che partecipano al cosiddetto G8 dell'università e la polizia. Abbiamo parlato di terremoto perché ieri è stata smantellata la prima tendopoli. Abbiamo parlato molto di esteri con lo Sri Lanka e la fine della guerra tra il governo centrale e i ribelli tamile, e anche del processo ad Aung San Suu Kyi, la leader dell'opposizione birmana. Adesso parleremo di dati economici, ma prima di tutto un'ultima ora. Sì, ed è una notizia che ha davvero pochissimi dettagli e giunge da Bruxelles. C'è del fumo che esce dal palazzo della Commissione europea, palazzo che è stato evacuato. Deve essere evidentemente scoppiato un incendio o qualcosa di simile. Speriamo che non ci siano naturalmente vittime, ma aspettiamo soprattutto dettagli di questo flash d'agenzia di pochi istanti fa. E veniamo appunto ai dati economici. Prima di tutto quelli che sono appena giunti da Federmeccanica, che è l'associazione di Confindustria che raccoglie le imprese metalmeccaniche. Nel primo trimestre 2009 la produzione dell'industria del settore è scesa del 30% rispetto allo stesso periodo del 2008 e del 13,4% rispetto all'ultimo trimestre dell'anno scorso. Un calo molto pesante, ma ci si riferisce appunto al primo trimestre tra gennaio e marzo. Tra l'altro dall'indagine emerge che il 41% delle imprese metalmeccaniche per i prossimi 6 mesi prevede una riduzione dei propri organici. E facciamo però un passo indietro. Gli italiani incassano ogni anno uno stipendio che è tra i più bassi dei paesi OCSE. Questa è la notizia che ha scatenato subito una serie di reazioni, anche un dibattito politico. Ieri un salario medio mensile netto di 1.300 euro. L'Italia si colloca al 23° posto nella classifica dei 30 paesi dell'Organizzazione di Parigi. Di questo, ma non solo di questo, ha parlato il segretario della CGIL, Guglielmo Epifani, agli Stati Generali delle Camere del Lavoro. I lavori degli Stati Generali delle Camere del Lavoro, ci si perdonerà il gioco di parole, li sta seguendo Paola Cavadi. Paola. Sì, buongiorno. Il segretario della CGIL Epifani è tornato sui temi caldi della crisi a 2 giorni di distanza dalla manifestazione di Torino e dallo scontro con i Cobas. Per farlo sceglie, come hai detto, Simone, l'Assemblea Generale delle Camere del Lavoro riunite a Roma. Da qui risponde al ministro del Welfare Sacconi che, commentando i dati OCSE sui salari italiani, tra i peggiori dei paesi industrializzati, ha proposto di legare il salario alla produttività delle imprese. Ma sentiamo come ha risposto Epifani al ministro Sacconi. Non ha letto bene quello che dicono le statistiche internazionali. Il problema delle statistiche conferma quello che ha sempre detto la CGIL, che una parte del problema dei salari in Italia è che quote crescente sono state portate via dal fisco. Quindi quello che c'è bisogno è non avere solo la detassazione a secondo livello, ma avere forme di detassazione del lavoro, del reddito lavoro e del reddito da pensione a livello nazionale. Questo è il problema che il governo farebbe bene a esaminare, perché è esattamente quello che da tempo stiamo sostenendo. Ancora, il segretario della CGIL è d'accordo col presidente di Confindustria Emma Marcegaglia sull'opportunità di un raddoppio della cassa integrazione. Bisogna evitare, ha detto Epifani, che il malessere sociale si aggravi. Per questo il governo deve fare di più contro la crisi. La CGIL torna a chiedere un tavolo col governo e la Fiat perché la preoccupazione cresce, ha detto, ma il problema non riguarda più soltanto il settore auto. Per Epifani la situazione del petrolchimico e della chimica in Italia desta gravi preoccupazioni. Il governo deve essere in grado, ha aggiunto Epifani, di mettere in discussione le scelte dell'ENI. Non possiamo permetterci, ha concluso, la chiusura di impianti importanti come quello di Porto Torres o Porto Marghera. E da Roma è tutto, a voi studio. E di Fiat e anche della situazione dei salari italiani torneremo a parlare più avanti, intanto con degli altri ospiti. Intanto questa mattina il vicepresidente di Confindustria Alberto Bombassei ha commentato i dati OCSE di cui parlavamo poco fa durante la trasmissione Mattino 5. I punti, ha detto Bombassei, sono il cuneo fiscale ma anche la produttività. Noi dobbiamo innanzitutto fare un distinguo fra quelli che sono i salari e quello che è il costo del lavoro. Quindi se dovessimo rifare la classifica sul costo del lavoro, probabilmente i risultati sarebbero molto diversi. Peraltro sappiamo che noi abbiamo un cuneo fiscale molto, molto elevato. Giusto per fare dei numeri e per capirci meglio, su un salario di 100 le aziende pagano 160 e al dipendente vanno in tasca puliti 70. Sicuramente questo aspetto si può migliorare. Abbiamo un altro concetto invece molto importante che credo su cui dobbiamo lavorare, che è la produttività. Se facciamo un'altra classifica, anche qui vede il nostro paese nel basso di classifica come produttività. Quindi credo che siccome la produttività è quella che genera ricchezza e quindi prima di spartirsi, quindi è giustamente aspirare a crescere i salari, bisogna che troviamo il modo di generare più ricchezza, di creare più prodotto interno lordo. E siamo alla politica. L'Agenzia delle Nazioni Unite si sbaglia sui respingimenti degli immigrati. E questa è la nuova replica del ministro della Difesa La Russa all'Alto Commissariato dei Rifugiati dell'ONU, che aveva criticato il nostro governo. In diretta da Montecitorio la nostra Elisabetta Fiorito. Elisabetta, allora. Nuove scuse a Laura Boldrini, criticata nei giorni scorsi, ma insomma la sostanza non cambia. Il ministro della Difesa Ignazio La Russa interviene di nuovo sui respingimenti e sull'immigrazione. Il governo è compatto ed è l'organismo ONU per i rifugiati a sbagliare. La portavoce italiana Laura Boldrini spiega: La Russa non ritiene adeguato il comportamento dell'Italia e dei marinai italiani nei raccompagnamenti verso il porto libico, ma anche Frattini, che per La Russa è l'uomo più moderato del governo, dice che l'ONU è in errore. Il Popolo della Libertà precisa poi che non c'è nessuna divisione nel governo. Sentiamo a questo proposito Italo Bocchino. Non c'è alcuna divisione tra le dichiarazioni di Frattini e di La Russa, c'è solo la differenza di ruoli. Il ministro degli esteri è a capo della diplomazia ed è più diplomatico, il ministro della difesa ha il dovere di tutelare quelli che sono i diritti dei confini da difendere del nostro paese. Ieri Frattini ha rimproverato La Russa per i toni usati nel criticare l'organismo ONU per i rifugiati, che dice Frattini va rispettato anche se sbaglia. E oggi ad intervenire il presidente della Camera Gianfranco Fini, per il quale bisogna evitare la tentazione di polemiche preelettorali, perché il tema tocca il futuro del nostro paese e va oltre il 7 giugno. Per Emma Bonino PD, quelli sull'ONU sono parole sgangherate. L'attenzione viene messa sugli sbarchi, che sono mediatici, ma se si guardano le cifre reali dei flussi si capisce che gli immigrati arrivano da tutt'altra parte. E per il momento qui da Montecitorio è tutto, a voi studio. Grazie Elisabetta Fiorito. E un altro dei temi politici sul tappeto in vista delle prossime elezioni europee amministrative, c'è anche il referendum elettorale del 21 giugno. Oggi conferenza stampa del comitato promotore, sempre la nostra Elisabetta Fiorito ha sentito il presidente del comitato promotore Giuseppe Guzzetta. Sentiamo. Ciò che causa dei problemi è la disinformazione di chi dice che con questo referendum noi faremmo un regalo a Berlusconi o non so chi. Questo referendum è per l'Italia ed è per avere un sistema bipartitico in Italia come ce l'hanno le grandi democrazie. Nessuno si scandalizza in Inghilterra se un partito col 35% ottiene la maggioranza dei seggi. Noi vogliamo che in Italia sia la stessa cosa. Chi ha un voto in più vince e gli altri fanno l'opposizione. Si è parlato molto spesso di rinvio, si è parlato di possibilità di posticipare il referendum di un anno. Che cosa chiedete voi? Noi chiediamo che dopo che si è deciso di votare in estate, perché il 21 giugno è estate, quantomeno ci si consenta di informare adeguatamente gli italiani, cosa che purtroppo non avviene, anche perché la Commissione di Vigilanza ha adottato un regolamento per la campagna referendaria in cui noi fondamentalmente non ci siamo. Parliamo di tutt'altre polemiche che non riguardano Roma ma Milano, non riguardano la politica ma le due ruote. Ieri un passo di sgambata Dario Ceccarelli che ha fatto discutere. Sì, questo Giro d'Italia che è arrivato a Milano ci è arrivato nel modo peggiore. Doveva essere la festa, la celebrazione, i 100 anni del Giro, e invece è diventato un pastrocchio strano dove prima si dice no, il Giro, il percorso è troppo pericoloso, facciamo uno sciopero di protesta, poi a metà strada ci ripensano, alla fine fanno la volata, la gente non ha capito più niente e questa protesta è diventata una farsa, ecco, detto un po' così semplicemente. E se si vuole poi parlarne ancora di più, si può dire che questo, in un certo senso, questa manifestazione, chiamiamola così, parasindacalista dei corridori, ricorda un po' la fotografia del nostro paese, nel senso che il Giro d'Italia è appunto il giro del nostro paese e nei corridori vede un po' le stesse difficoltà. Dovrebbero far gruppo, dovrebbero far squadra, dovrebbero capire quali sono le loro intenzioni, il loro obiettivo. In realtà poi tra passato e presente non riescono a darsi una consapevolezza di categorie e quindi hanno fatto questo pasticcio che non è piaciuto a nessuno. Grazie Dario Ceccarelli. Ricordiamo che oggi si riposa il Giro, non abbiamo parlato di sport perché oggi non corrono, quindi domani si riparte, insomma. Adesso noi però siamo in grado di collegarci con Bruxelles, dove c'è Enrico Brivio, che forse ci può dire qualcosa di più su questo incendio che è scoppiato nel palazzo della Commissione Europea. Enrico, allora. Io sono proprio qui sotto il palazzo per le monce della Commissione Europea, vediamo ancora del fumo uscire dal tetto, del fumo nero. Io ero all'undicesimo piano e sono stato evacuato con altri, con tutti i funzionari e i giornalisti che erano lì con me, tutti sono usciti molto tranquillamente, diciamo per il momento sono delle folate di fumo, sembra un incendio sotto controllo, abbastanza limitato, ci sono camion dei pompieri, polizia, ora tutto il palazzo è stato cerchiato, ma sembra per il momento una situazione sotto controllo. Grazie allora Enrico Brivio per questi aggiornamenti su questo incendio che sarebbe scoppiato, che è scoppiato, il fumo che esce dal palazzo della Commissione Europea, ma naturalmente cercheremo, se sarà possibile, di darvi qualche ulteriore dettaglio su questa notizia nel corso di Extra Large. Incendio nel palazzo della Commissione Europea a Bruxelles, una colonna di fumo si leva dal centro dell'edificio che è stato evacuato. Torino, dopo le tensioni e gli arresti di venerdì al G8 dell'università, scontri tra studenti e polizia. Indiscrezioni dalla stampa tedesca su Fiat, nessuna chiusura di stabilimenti e si parla anche dell'addio al marchio Lancia. La Russia insiste, l'alto commissariato ONU per i rifugiati sbaglia la risposta, attacchi inaccettabili. Morto il leader e ribelli tamil sconfitti, l'esercito dello Sri Lanka riconquista il nord dell'isola, ma l'Europa sospetta gravi violazioni dei diritti umani. E la notizia è di due giorni fa, la classifica OCSE sui salari, con l'Italia al 23esimo posto, con uno stipendio medio di 1.300 euro netti al mese. Una notizia che ha fatto molto discutere, ci sono le proposte del ministro Sacconi e dichiarazioni del segretario della CGIL Epifani, le abbiamo già sentite poco fa. Ne parliamo con Mario De Aglio, professore di economia all'Università di Torino, editorialista della Stampa. Buongiorno professore. Che in un bel editoriale, tra l'altro oggi sulla Stampa, insomma, mette insieme un pochino di elementi. Allora, partiamo proprio dai salari, professore. Lei ha scritto che è un declino annunciato. Quali sono le ragioni? Le ragioni di questo divario sono essenzialmente tre. La prima è che nell'economia italiana ci sono più lavori, più settori che pagano poco. tipo il tessile, tipo piccole industrie, eccetera, e pochi settori di quelli avanzati dove le paghe sono mediamente maggiori, come la chimica, la farmaceutica e l'elettronica. La seconda è che il carico fiscale in Italia è molto alto, questo anche per pagare una burocrazia forse inefficiente, e la terza è che i contributi sociali sono alti per pagare pensioni a una popolazione molto vecchia che ha pensioni relativamente favorevoli. Senta professore, lei dice che insomma, questo abbassamento dei salari o comunque questa situazione di bassi salari in Italia si accompagna e non è forse un caso anche con fenomeni di sfilacciamento sociale ed economico. Lei fa degli esempi. Sì, io ho messo a confronto due cose che sono successe a Torino nella giornata di sabato e un pezzettino anche di domenica. La prima è davanti alla fabbrica del Lingotto. Il segretario generale della FIOM, cioè il capo del più forte sindacato metalmeccanico d'Italia e forse d'Europa, che viene senza tante cerimonie tirato giù dal palco, mentre i 15.000 operai che assistono, che partecipano alla manifestazione non fanno niente. E questo l'ho trovato simbolico e sintomatico. A pochi chilometri dalla fabbrica del Lingotto, nella centralissima piazza San Carlo, nello stesso momento o quasi, c'erano decine di migliaia di persone che sono arrivate a 45.000 alla sera a uno show di Mediaset che spiegava come sarebbe, come sarà la futura televisione digitale e finiva con un'illustrazione dello spettacolo di Maria De Filippi. E questi, diciamo, sono in qualche modo due fenomeni paralleli. E professore, più in generale, e le chiediamo molto brevemente una vera risposta a flash. Secondo lei, perché questo è un grande tema di discussione in questo periodo, in tempi di crisi è o non è il momento di fare grandi riforme? Direi che è il momento, sì, direi che io le farei. Ci troverei il momento in cui le resistenze, diciamo, degli interessi contrapposti alle riforme diventa più facile da superare sull'onda di uno scontento che monta, diciamolo pure così. Però per fare questo bisogna essere capaci di agire razionalmente, cioè le riforme devono essere vere riforme, quindi in senso razionale, migliorativo, eccetera, e non invece farsi portare dalle ondate emotive per cui per esempio si vuole buttare giù tutto oppure si vuole facilmente dare tutto a tutti. Le vere riforme sono riforme relativamente impopolari, non cambiano le cose dall'oggi al domani. Grazie allora al professor Mario De Aglio per essere stato con noi, editorialista della Stampa e professore di economia. Siamo invece con Giulia Crivelli. Buongiorno Giulia. Buongiorno. E riprendiamo il tema di Fiat, perché abbiamo detto nei titoli ci sono delle indiscrezioni di stampa tedesca, quindi quest'oggi proprio ce la racconti tu. È di nuovo la Bild che batte un po' tutti. Due settimane fa aveva realizzato la prima importante intervista a Sergio Marchionne, che aveva scelto così di farsi conoscere tramite questo giornale da 6 milioni di lettori alla stragrande maggioranza dei tedeschi, per i quali era un illustre sconosciuto. Oggi sempre la Bild riferisce di un incontro tra Jürgen Rüttgers, che è il governatore del Land del Reno-Vestfalia, dove c'è uno degli stabilimenti Opel, e appunto Sergio Marchionne. Avrebbe fatto già nell'intervista di due settimane fa, Marchionne aveva detto: non preoccupatevi, non abbiamo intenzione di chiudere stabilimenti Opel in Germania. Adesso avrebbe concretizzato questo impegno con il governatore del Land, naturalmente è per avere un via libera ulteriore a questa importante operazione dello scacchiere che ha in testa Marchionne. Tra l'altro si parla anche della possibile sparizione del marchio Lancia in favore del marchio Opel. Al di là di questo, parliamo di altri italiani all'estero e ti chiediamo di essere molto breve, Giulia, perché oggi abbiamo veramente poco tempo. Sì, un po' di saldi, dollaro basso e così forse anche per questo Diego Dravalle del gruppo Todd si è comprato il 6% di Saks Fifth Avenue, che è uno dei più grandi department stores americani, anche se si chiama Fifth Avenue perché a New York ha filiali in tutta l'America, è diventato il secondo azionista di questo grande gruppo. Sarà in questa strana posizione di venditore e compratore, perché naturalmente vende i suoi marchi al department store e poi però a sua volta è interessato al fatto che questi marchi vengano poi venduti al pubblico, ed è un altro appunto un Made in Italy che si compra un altro pezzo di America. Grazie, grazie Giulia Crivelli anche per oggi. Adesso invece un appuntamento, perché questa settimana per quanto riguarda le mobilitazioni antimafia è importante. Il 23 maggio, sabato prossimo, ci sono le celebrazioni, ricordo, di Giovanni Falcone. Da Milano a Palermo questa settimana un filo rosso unisce la mobilitazione antimafia in un viaggio che tocca coscienze e istituzioni. Nel capoluogo lombardo un gruppo di associazioni, tra cui Ammazzateci Tutti, Grilli di Milano, Educaci, Legalità Organizzata, promuovono la settimana contro le mafie. 7 giorni di dibattiti, reading, spettacoli, cineforum, lezioni pubbliche per informare i cittadini sullo scenario mafioso al nord. Eventi che culmineranno sabato 23 nella giornata di ricordo della strage di Capaci in una biciclettata antimafie. Nelle stesse ore nell'aula bunker di Palermo, alla presenza del presidente Napolitano, l'annuale convegno promosso dalla Fondazione Falcone davanti agli studenti provenienti dalle scuole di tutta Italia. Oggi, ci ricorda la sorella Maria, Giovanni Falcone avrebbe compiuto 70 anni. Come ogni anno è grandissima rimpianto, soprattutto perché Giovanni non c'è più, il dolore, però c'è anche la speranza che possano continuare a camminare le idee di Giovanni, soprattutto attraverso i giovani. Spero che possano continuare loro a portare avanti questo genere di tensione e di voglia di cambiamento della Sicilia. A 17 anni da quel giorno, davanti agli occhi di tutti, c'è quella voragine sullo svincolo per Capaci, ma è dovere di tutti ricordare cosa diceva della mafia Giovanni Falcone. La mafia non è affatto invincibile, è un fatto umano e, come tutti i fatti umani, ha un inizio e avrà anche una fine. Piuttosto bisogna rendersi conto che è un fenomeno terribilmente serio e molto grave e che si può vincere. Maria Luisa Pezzali, GR24, Il Sole 24 Ore. Siamo alla Fiera del Libro di Torino, oggi gran finale dell'edizione 2009 con Lucio Dalla e Franco Battiato, ieri grande protagonista Giorgio Faletti, per il quale c'è stato un vero e proprio bagno di folle, appena uscito il suo ultimo attesissimo thriller Io sono Dio, parla di un uomo mentalmente disturbato che commette una serie di attentati a New York. C'è dunque il fantasma dell'11 settembre, come lo stesso Faletti racconta alla nostra inviata Alessandra Tedesco. L'11 settembre ha un po' rovinato gli sceneggiatori e gli scrittori, perché ha dimostrato che la realtà può essere superiore a qualsiasi più sfrenata fantasia. Ora, io ho cercato con questo libro di offrire ai miei lettori un eventuale scenario in cui la paura possa essere causata da un nemico che non è ricercabile e non va individuato al di fuori del paese, ma all'interno dello stesso paese che in qualche modo in passato si è reso responsabile di una serie di operazioni. Questo lo dico perché c'è un breve antefatto che riguarda la guerra del Vietnam. In genere, come ti nasce l'idea della costruzione di un personaggio e nello specifico del protagonista di Io sono Dio? Mi trovo in mano una matassa di filo intricatissima e molto piccola. E quella è l'idea. E poi poco per volta, districando, e mi trovo una linea che va da un punto A a un punto finale, e quella è la trama del romanzo. Solo a quel punto lì comincio a scrivere e a mettere nero su bianco la trama che ho ideato. Ma è tutto chiaro dall'inizio o poi i personaggi, con il passare del tempo della storia, prendono un po' il sopravvento e cambiano magari la tua idea iniziale? Questo succede sovente. Mettiamola così, con una battuta: se uno va a cercare delle patate e trova dei tartufi, non è che li lascia lì, ma li raccoglie. Il tuo romanzo d'esordio, Io uccido, ha venduto più di 4 milioni di copie, più o meno sugli stessi livelli gli altri romanzi. Ti è venuta un po' l'ansia da prestazione? Insomma, ormai si aspetta l'uscita del tuo romanzo come se si aspettasse Harry Potter o comunque qualsiasi altro mega seller. Ma è giusto che un autore che è amato dal pubblico un briciolo di ansia della prestazione se la faccia venire. In questo caso però devo essere onesto, non mi voglio nascondere dietro un dito, sono ragionevolmente convinto che questo sia un buon romanzo. Le 13:46 minuti 38 secondi, è notizia di questa mattina che la Marina australiana ha sventato un attacco dei pirati a due navi mercantili a largo dello Yemen. E sono ancora nelle mani dei pirati somali 10 italiani componenti l'equipaggio della Buccaneer, la nave della Mico Peri Marines Contractors di Ravenna, sequestrata l'11 aprile scorso. Alla lotta alla pirateria dedichiamo dunque quest'ultima parte di XL. Sentiamo Cristina Balotelli. Gli attacchi dei pirati sono in aumento. 263 casi di pirateria nel 2007, 293 nel 2008. 21 persone sono state uccise. E se nel sud-est asiatico, nella zona degli stretti malesi, gli attacchi sono diminuiti, c'è stato un aumento nel Corno d'Africa. Quel che preoccupa sono soprattutto i 49 sequestri di navi con richiesta di riscatto e il sequestro di 899 membri di equipaggio, tra i quali molti europei. Quali sono le soluzioni possibili oggi? Ammiraglio Pierpaolo Ramoino dell'Istituto Superiore Stato Maggiore Interforze. Riprendere il sistema di pattugliamento dei mari interessati come si faceva nell'Ottocento e di stabilire nei porti vicini alle zone in cui la pirateria si sta diffondendo proprio delle stazioni navali con l'autorizzazione dei paesi costieri per controllare il fenomeno sin dal suo inizio, quindi proprio dalla partenza di eventuali pirati dalla costa. Pattugliare i mari pericolosi con mezzi adeguati, navi e aerei militari. Scortare quelli che possono essere bersagli di grande interesse per i pirati. È la soluzione che sembra andare per la maggiore. Unione Europea e NATO hanno annunciato i primi successi delle loro missioni militari nel Golfo di Aden. Anche Cina e India sono presenti con navi da guerra. La seconda soluzione, sostenuta dalle società specializzate nella sicurezza e dal generale americano David Petraeus, consiste nel non impiegare le marine militari, ma autorizzare la difesa privata. Le navi, in un certo senso, potrebbero autodifendersi. Questo però vuol dire certamente un aumento dei costi sia per gli armatori che per gli stati di bandiera e soprattutto rendere un meno mercantili le navi, militarizzandole alquanto, e questo non tutti gli armatori lo vogliono fare. Manca una legge apposita a livello internazionale e quella italiana non permette di armare le navi mercantili se non in caso di emergenza nazionale. Il Belgio ha optato per questa soluzione offrendo agli armatori piccole squadre di difesa a pagamento, 8 militari per nave per 115.000 euro alla settimana. I cinesi invece addestrano gli equipaggi dei mercantili che per difendersi dagli attacchi hanno cominciato a lanciare delle Molotov fatte al momento. Il problema è che manca una politica comune e si assiste ad una sorta di schizofrenia internazionale. Ognuno fa a modo suo. Qualcuno, come i francesi e gli americani, ha tentato con successi alterni dei blitz. America has to be at the forefront of this. It's time for us to step in and put this to an end to this crisis. It's a crisis. Wake up. Parla un membro dell'equipaggio della Maska Alabama, salvata con un blitz spettacolare dagli americani, ma il capitano Phillips ha rischiato di morire. This crew was lucky to be out of it with every one of us alive. We're not going to be that lucky again. Curioso il caso del veliero francese Ponent, per liberare il quale Parigi ha fatto paracadutare in mare forze speciali che, dopo aver liberato lo yacht, hanno raggiunto a terra i pirati e recuperato il riscatto. Ma per scendere a terra ci vuole il permesso del governo, che i francesi hanno detto di avere avuto dalle autorità somale. La terza soluzione è appunto quella di sbarcare e occupare le basi dei pirati con le forze speciali. Ma l'ONU oggi non autorizza questo tipo di operazioni. Il fenomeno della pirateria ha notevoli ripercussioni economiche sugli armatori, oltre che sugli stati. Stefano Messina, amministratore delegato della Ignazio Messina NC. Consideri che noi facciamo circa 24 viaggi all'anno su questa rotta con navi importanti, quindi costose, il cui costo di esercizio giornaliero è nell'ordine tra i 12 e i 15-16 mila dollari al giorno. Quindi il più grosso impatto economico è: uno, il discorso che aumentano i costi della sicurezza, monitoraggio, equipaggio, servizi, turnazione del personale. Due, l'allungamento del viaggio, perché la nave per stare più lontano dalle coste deve fare più miglia. Il fatto di fare più miglia vuol dire che il viaggio dura di più, vuol dire che quindi con gli stessi ricavi dati dal fatturato della nave ho più costi di esercizio, perché questa rata giornaliera di costo di 15-16 mila dollari al giorno è su più giorni a parità di ricavi, quindi il conto economico del viaggio subisce un forte impatto. Poi c'è un aspetto assicurativo, a parte alcune coperture ordinarie che coprono il rischio pirateria, invece ci sono alcune assicurazioni che chiedono degli extra surcharge ai caricatori, quindi ai clienti, a causa della pirateria, e quindi questo diminuisce la competitività di questo tipo di trasporto. Se si considera che il 90% del commercio mondiale viaggia via mare su circa 50.000 navi mercantili, si ha subito un'idea dell'entità del danno. Ma i pirati che vediamo in televisione sono probabilmente l'ultimo anello di una struttura complessa, come ci spiega l'ammiraglio Pierpaolo Ramoino. C'è tutta un'organizzazione alle spalle, quella appunto che tratta i riscatti, che recupera il denaro, che impiega il denaro sia per arruolare nuovi pirati sia per sfruttarlo dal punto di vista economico. Si ipotizza che i riscatti siano gestiti da organizzazioni criminali che hanno messo radici in Africa e Medio Oriente. Molti temono che organizzazioni terroristiche come Al-Qaeda possano in futuro allearsi alla pirateria. Generale Giacomo Guarnera, direttore del Centro Militare di Studi Strategici. Che ci possa essere un intreccio tra pirateria come strumento di terrorismo, io lo credo possibile e verosimile. Al-Qaeda è un'organizzazione che non si ferma davanti a nulla pur di raggiungere i suoi scopi, i suoi intenti. Non abbiamo bisogno di richiamare gli episodi, quindi credo che la pirateria possa essere veramente uno sbocco delle possibili soluzioni che Al-Qaeda può ricercare. Sono molte quindi le sfide poste dalla pirateria al commercio internazionale e alla sicurezza nazionale. Cristina Balotelli, GR24, Il Sole 24 Ore. C'è stato un incendio nel palazzo della Commissione Europea, è stato evacuato. G8 dell'Università a Torino, scontri tra gli studenti e la polizia. Fiat Marchionne avrebbe rassicurato i tedeschi, nessuna chiusura di stabilimenti. Il ministro La Russa insiste, l'alto commissariato per i rifugiati sbaglia. Sri Lanka, sono stati sconfitti i ribelli Tamil e ucciso il leader. Era tutto per questa edizione del GR Extra Large, curata e condotta da Alessio Maurizio e Simone Spezia. Coordinata da Daniele Biacchesi e con in regia Pietro Lacorte. Prossimo giornale radio alle 15, con XL ci risentiamo domani alle 13. GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Gianfranco Fabi.